Ben ritrovati, sono Livia Napolitano. Da oggi inauguro una nuova serie di puntate di Nottetempo. Finora vi abbiamo proposto racconti di autori indipendenti. Abbiamo parlato di storia, quella del passato e quella più vicina ai nostri giorni. Con Radio Libriamoci, attraverso il web abbiamo azzerato distanze, unito passioni, vi abbiamo proposto una sorta di viaggio a chilometro zero, perché per noi viaggiare è un modo di vedere le cose, è desiderio di conoscenza e confronto. Oggi inizia il nostro Safar. Safar è il secondo mese del calendario islamico, il mese detto vuoto, il mese scelto dagli arabi preislamici per partire per le loro scorrerie, lasciando appunto vuote le loro case. Safar è la musica dei Kayorda che state ascoltando in sottofondo e che ci accompagnerà in questo viaggio a chilometro zero. La mia vita è un lungo safar, un viaggio ed una colonna sonora. Il suono di una corda del lud, regalatomi da mio padre e dal padre di suo padre all'infinito, come il deserto che vedo fuori dalla finestra di casa. Non ha ostacoli per me questo deserto. Padre, io parto. E se Dio mi aiuterà, riuscirò ad attraversare il mare. Non ho timori e questo mi basta. Figlio mio, un buon viaggiatore non ha un piano preciso e non intende arrivare. Dio ti benedica. Il mio safar a chilometro zero ha avuto inizio nella mia camera da adolescente con le pareti coperte di libri che fungevano da mezzo di trasporto per raggiungere i luoghi più sperduti della terra. I chilometri poi li ho percorsi da adulta raggiungendo quei luoghi che a chilometro zero avevo visitato. Ogni mio safar non è mai scelto a caso, segue sempre una traccia, un racconto, un autore. Chilometro zero, e quindi Napoli, la mia città. L'infanzia l'ho trascorsa in quel lembo di territorio che nel Settecento veniva definito il Miglio d'Oro, per la ricchezza e la bellezza dei paesaggi che lo compongono. Si estende dal quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio, dove vivevano i miei genitori. Prosegue verso San Giorgio a Cremano, lì ho fatto l'asilo. Attraversa i comuni di Portici ed Ercolano e giunge sino a Torre del Greco, dove ancora oggi vive mia nonna. In questo lembo di terra, Carlo di Borbone fece edificare la sua residenza estiva, precisamente a Portici, e tutti intorno sorsero numerose ville patrizie che gli aristocratici napoletani si fecero costruire affidandosi ai più raffinati architetti del rococò napoletano, tra cui Luigi Vanvitelli, lo stesso che progettò la Reggia di Caserta. Quindi, mentre in Europa si susseguivano tutta una serie di guerre, per Napoli quello fu un periodo di splendore politico e culturale, che ebbe appunto inizio il 10 maggio del 1734 con l'arrivo di Carlo di Borbone. Sotto il suo regno vennero realizzate tra le opere più importanti che rendono ancora oggi famosa la mia città nel mondo: il Teatro San Carlo, la reggia di Capodimonte, quella di Portici, la reggia di Caserta, e contribuendo a far diventare Napoli una delle più importanti tappe del Grand Tour. Il Grand Tour era una sorta di viaggio di formazione intrapreso dai giovani rampolli delle case aristocratiche di tutta Europa verso la Francia e l'Italia. L'età considerata idonea per compiere il viaggio era intorno ai 18 anni. Vi leggo alcuni suggerimenti che venivano dispensati affinché la formazione potesse compiersi. Se volete che il giovane apprenda il più possibile durante il viaggio, dovrete comportarvi così. Primo, egli deve conoscere qualcosa della lingua del paese in cui si reca. Poi deve avere un servo, un tutore come guida del paese. Fate che non rimanga troppo tempo in una città o in un paese, fate in modo che cambi spesso dimora da una parte all'altra. Ciò contribuirà a renderlo più pratico della città, ma fate che frequenti il miglior ambiente della città dove si trova. Dategli da portare qualche libro sui paesi che visiterà, fate che tenga un diario. E fu dietro a questo suggerimento che nacquero le prime guide di viaggio. Alcune erano delle vere e proprie opere, come quella in 8 volumi dell'astronomo Lalande, che parte dalla Francia nell'agosto del 75 per viaggiare attraverso l'Italia un intero anno. 3 anni dopo pubblica la sua opera, Voyage in Italie, la descrizione più ampia e completa mai apparsa sull'Italia. Napoli quindi tra le capitali del Grand Tour. Lo scenario culturale era fervido in città e nella zona del Miglio d'Oro. Vi giungono artisti e letterati da ogni parte d'Italia ed Europa. Ed una di quelle ville patrizie, precisamente sulla collina dei Camaldoli a Torre del Greco, viene abitata da Giacomo Leopardi. Lì scrisse questi versi. Qui, sull'arida schiena del formidabil Monte Sterminator Vesevo, la qual null'altro allega, arbor né fiore tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra.